711. Composta di cotogne. Sbucciate le mele cotogne e tagliatele a spicchi non tanto grossi, ai quali leverete quella parte di mezzo che faceva parte del torsolo. Dato che siano grammi 500, mettetele al fuoco con un bicchiere e mezzo d'acqua, e quando avranno bollito a cazzaruola coperta per un quarto d'ora, versate nella medesima grammi 180 di zucchero fine. Appena cotte, levatele asciutte e ponetele nel vaso che vorrete mandare in tavola. Fate restringere il succo che resta per ridurlo a siroppo, quindi versatelo sopra le cotogne e servitele di acce.